siamo destinati ad essere amati da chi non vogliamo e ad amare chi non ci vuole. Siro Blio, Big Ben DJ. Hey. Attacchi d'ansia, la tua danza, panico, rabbia repressa, senti voci in discordanza in una stanza che ti ingessa. Il respiro si dimezza in preda al vomito, inginocchiata con le fitte nello stomaco, ti bruci gli avambracci coi fornelli nel tinello, coltelli cacciaviti, soffri solo la sentinella del silenzio, ti tagli i polsi con le spille da balia, riempi i buchi con l'inchiostro senza aria, semi nuda prigioniera del tuo ego, catturata da un diario dove scrivi il tuo segreto, pastiglie di veleno nel chiarore della luna, con le sangue sul tappeto, un altro ago, un'altra cruna. Croci sulla pelle, incroci fra le stelle, piangi a crepapelle, graffi lividi, piangi a catinelle. Croci sulla pelle, incroci fra le stelle, con l'animo ribelle, sedute spiritiche, numeri tabelle. Segni vortici concentrici sul rotolo di carta igienica nel ripostiglio, verdi come il miglio mentre chatti sul portale della Vodafone, scoppi come Molotov, sogni un figlio. Vuoi un attrezzo, uno strumento di interfaccia con l'esterno, scatti foto alle tue parti intime, dialoghi su Messenger, ma con un viscido sessuomane attraverso la webcamera sul mobile. Maschere di lacrime si intrecciano nel cielo, rami di alfabeti, ragnatele, divieti a bruciapelo, in casa nel tuo limbo second class, visioni psicofarmaci che portano al di là della realtà, come macchie di mascara sul quaderno quando scrivi i tuoi pensieri cercando ancora un senso. Fobie su fobie, segni rossi, fantasie, la tua vita che si spegne in un tormento di pazzie. Lasciami un po' stare, dicevi quando stavi insieme a me. Croci sulla pelle, libera nel vuoto alla merce del pianto di un bambino, dimmi che non lo farei. Dell'incenso con le ballerine ai piedi, scorri la rubrica, insonnia nella notte, bevi birra, cerchi qualche tirapiedi, tra le briciole, gli schizzi, ti alcolizzi e non ci vedi, fuggi via di casa, corri per la strada, drogarsi con la gente sconosciuta è un tocca sana, ti parla sottovoce dopo che ha tirato da una cerbottana, non ci vuole valeriana per calmare i tuoi conflitti, due biglietti per scappare con quel figlio di puttana, ti amo, retrocedi, faccio turni da guardiano e ancora non ci credi, tagliami le mani come a Che Guevara. Oh crazy baby, lasciami un po' stare, dicevi quando stavi insieme a me. Croci sulla pelle, libera nel vuoto alla merce del pianto di un bambino, dimmi che non lo farei più, non lo farei. Lasciami un po' stare, dicevi quando stavi insieme a me. Croci sulla stavi insieme a me.